L'idea che ci ha, fra l'altro, ringrazio delle persone che sono fra il pubblico, che sono Stefano Gallazzi e Marco Crespi, che hanno collaborato. Un po' l'idea che ci ha accompagnato è stata quella di aver provato a costruire delle emozioni, ma delle emozioni che non nascono casualmente, nascono da dei bisogni o dei sogni o delle speranze. E la chiusura con il comandante Bob che racconta di questa battaglia che diventa, che a questo punto diventa emblematica, non mi piace parlare di mito perché sposta da un'altra parte una possibilità, una storia, ma sta proprio lì a significare una possibilità che forse in alcuni appuntamenti della storia si sono visti e che per una serie di fatti che meriterebbero davvero una grossissima discussione sono stati puntualmente traditi. È questo tipo di sguardo che poi con la morte della Costituzione a cui stiamo assistendo e per cui questo governo ha ancora un anno di tempo per lavorare, ecco, anche questo messaggio di Lucia che piglia e se ne va e muore proprio sulla battuta del divieto della ricostituzione del partito fascista quando gli esempi hanno attraversato dopoguerra continuamente, ecco, è stato un po' il nostro segno. Una speranza coltivata da più parti, che poi più parti hanno tradito, hanno disatteso in altri momenti, cioè si è creata una grossa discussione all'interno, visto che si chiama collettivo e l'idea è un po' questa, no? Si è creata una grossa discussione anche su alcuni appuntamenti all'interno dello spettacolo che riguardavano quella parte di mondo anche cattolico o laico che si è mosso per la liberazione. Un punto che può passare di svista o che nel calar delle luci sparisce è questo richiamo che Massimo fa a deporre le armi, che non è solo un deporre le armi nel senso che siamo tutti non violenti, per carità, cioè no? Non è questo, non voglio fare questo tipo qua di apologia, però diventa un deporre le armi che diventa anche un deporre il sogno, ecco, è un po' quello il passaggio, rimane uno scritto che poi muore dopo pochi passi e la storia che ci raccontano i video, il video ed è una storia che ogni giorno vediamo può continuare, questo video potrebbe essere interminabile, ecco, è ciò che rimane. Il nostro, penso, messaggio è che ora è sempre, non è bastato il 25 aprile del 45, non è bastato, e chi coltiva un sogno, ma che è uno sguardo verso l'altro, uno sguardo verso il mondo che ti sta intorno, verso le povertà che stanno sempre di più montando, il disagio umano che sta sempre più crescendo, ora è sempre proprio un appello a, che poi è l'ultima battuta che propone Caterina, che è di una partigiana che oggi ha 90 anni, è proprio quello di non rinunciare, nonostante tutto di non rinunciare. E, in una versione della nostra proposta, che è in continuo divenire, poi noi arriviamo da una zona notoriamente rossa di vergogna che è Busto Arsizio, per cui abbiamo anche il nostro bel da fare. Prima lo spettacolo finiva così, abbiamo scelto poi di riportarlo su questa testimonianza di una donna che è della zona del Modenese e che oggi vive a Samarate, appunto, proposta da Caterina. Però volevamo leggervi il primo finale che rimane nelle intenzioni, rimane ciò che ci accompagna. A volte nelle serate terse guardo verso sud, la linea blu degli Appennini che degrada sull'orizzonte. Penso alle battaglie della 36esima, penso ai 5 continenti, sterminati e distesi di terra, moltitudini di uomini e di donne in marcia. Ricordo come se li avessi vissuti tutti, secoli di lotte e sangue. Mi sento parte di una comunità universale che supera i confini e congiunge le epoche, la comunità di coloro che prendono d'assalto il cielo. E penso al vecchio Bob, che non poté diventare vecchio. Un giorno qualcuno si impadronirà di quel futuro che i miei eroi non poterono conquistare. Sì, penso a Bob, al comandante Bob che urla, all'attacco Garibaldi, avanti Dio boia. E mi ritrovo a mormorare fra me e me, sì, Dio boia, avanti. Ecco, il senso è un po' questo. Grazie.